Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento oggi con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre e ho il piacere di salutare Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, saluto ai radioascoltatori. Allora Gianluca, nelle tantissime cose che l'associazione segue vi capitano ultimamente, ma d'altronde è passata da poco l'estate, vi capitano i vari problemi nei quali i soci sono incappati magari in un viaggio finito male. Sì, chiaramente è questo il periodo in cui ricevono più segnalazioni, perché chiaramente molte persone hanno concluso le proprie vacanze estive e quindi i problemi arrivano adesso. E quello che vogliamo raccontare oggi è una storia legata alla compagnia Ryanair, di cui leggiamo molte cose in questi giorni sui giornali, e devo dire che la disavventura capitata a due nostri soci confermano che evidentemente la compagnia non sta vivendo assolutamente un buon momento. In questo caso stiamo parlando di due musicisti, tra l'altro veneziani, che sono andati alle Gran Canarie in questo periodo, sono andati a trovare in realtà il figlio e sono rimasti là un mese, e sono partiti da Bologna, Francesco, con due bagagli standard, due bagagli a mano comprati della misura giusta, perché sappiamo che con Ryanair il bagaglio a mano non si paga, poi se ci sono delle misure più grandi invece arrivano delle belle mazzate, tipo 50 euro a valigia. In questo caso i nostri due soci, insomma, si erano premuniti delle misure standard proprio per evitare di pagare dei supplementi, e infatti da Bologna alle Gran Canarie non hanno avuto alcun problema, sono arrivati nell'isola, hanno passato le loro vacanze. Il problema è stato al ritorno, perché in questo caso all'aeroporto Gando delle Gran Canarie la coppia, insomma, è stata fermata dai dipendenti della compagnia low cost, e in questo caso dopo la misurazione dei bagagli è stato detto loro che devono pagare 50 euro a bagaglio. Loro hanno fatto notare, anche guardando appunto dal misuratore delle valigie, che in realtà la valigia, tra l'altro, era un tessuto chiaramente morbido, la valigia in realtà ci stava, invece le dipendenti hanno contestato che le ruote uscivano di un centimetro, ma poi, come abbiamo potuto vedere dalla fotografia, era tutto molto opinabile. In realtà la valigia ci stava benissimo all'interno del misuratore, quindi le due persone non avrebbero dovuto pagare il supplemento. E detto questo, dopo una piccola discussione, qua nasce un po' l'equivoco, la socia, appunto la compagna del musicista, anche lei in realtà è musicista, si è dichiarata stupita dalla situazione, e qua è nato un equivoco, perché le dipendenti, che parlavano solo spagnolo, hanno capito che la donna le stesse dando delle stupide, e quindi c'è stata proprio un'incomprensione sul termine. Da qua è nata una piccola discussione e, insomma, in parole povere, anche dopo l'intervento della responsabile, i due viaggiatori sono stati lasciati fuori dall'aereo, sono stati considerati ospiti non graditi, e quindi hanno dovuto passare un'altra giornata alle Gran Canarie, hanno dovuto chiaramente e prenotare un altro volo, passare un'altra notte là, con tutti i disagi del caso, anche perché il ritorno è stato molto più lungo del previsto, perché hanno dovuto prendere un aereo che ha fatto scalo in vari posti d'Europa per poi arrivare a Bologna, e per cui, insomma, è stata una disavventura dettata da una situazione che ci fa capire come Ryanair e i suoi dipendenti stiano vivendo comunque un momento di grossa difficoltà e evidentemente anche di grande malumore nei confronti della compagnia, tanto da farci, insomma, che ci siano questi comportamenti che noi riteniamo scorretti. Ovviamente adesso i due soci hanno scritto anche loro una lettera a Ryanair, noi siamo intervenuti legalmente e andremo a chiedere ovviamente un rimborso alla compagnia per le spese sostenute dai nostri due soci. Ovviamente il nostro appello è quello lanciato a questa compagnia low cost, che sta vivendo una grande crisi per i noti motivi che ormai conosciamo tutti, sì. E per cui, insomma, il nostro appello è quello di comunque comportarsi con correttezza nei confronti dei clienti. La cosa particolare, Francesco, di questo racconto è che effettivamente questi due nostri soci sono partiti regolarmente col bagaglio a mano, senza pagare i supplementi, da Bologna. Non si capisce cosa possa essere cambiato al ritorno la compagnia era la stessa, le valigie erano le stesse, e oltretutto, insomma, per una incomprensione su una parola in cui non ci si è capiti, insomma, c'è stato un eccesso di suscettibilità, e comunque crediamo che anche lasciare a terra i nostri due soci per questi motivi sia totalmente risibile. Certo, sono ovviamente d'accordo con il tuo pensiero. Abbiamo raccontato anche questa ulteriore vicenda di cui ora l'Adico si interesserà, speriamo che porti a una giusta risoluzione. Per conoscere tante altre cose di cui vi occupate, consiglio sempre di andare a vedere il sito www.associazionedifesaconsumatori.it, dove poi ci sono anche i contatti telefonici per eventualmente chiedere un vostro aiuto, una vostra collaborazione. Grazie a Gianluca Codognato, alla settimana prossima. Grazie a te, Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.